24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 15 minuti e 34 secondi di questo giovedì 27 febbraio inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Qui a Roma c'è una bellissima giornata di primavera, prendiamola, e anche penso a Milano, così sì, sentivo sì, da sì, direttore Fabio Tamburini. Tempo prendiamola bellissimo, come un nuovo inizio, dopo una settimana che ci ricorderemo tra le peggiori. Non poteva cominciare peggio quest'anno, a dire la verità. Beh, adesso è il momento di voltare pagina e davvero ricominciare a vivere con le cautele sì. necessarie, ma bene, bene. Con positività. Esatto, è il momento di calmarsi un po', e immagino che concordi con noi Maria Rita Gismondo, direttore del reparto di microbiologia clinica, virologia dell'ospedale Bioemergenza, dell'ospedale Sacco di Milano. Gismondo, buongiorno. Concordo. Felice di essere ancora sulla vostra radio. Io sono una follower e sempre invitata da Nicoletta Carbone, dalla grande Nicoletta Carbone. Dottoressa, lei ha messo per la prima, è stata la prima, no, a mettere in chiaro che si stava facendo un eccesso di allarmismo. Questa mattina in varie interviste, io cito quella Michele Bocci su Repubblica, Walter Ricciardi, che è stato scelto dal ministro Speranza come consigliere, dice: l'Italia ha una debolezza, il sistema è frammentato, è in mano alle regioni e lo Stato ha solo ruoli limitati. Nel nostro paese più vicino, la Francia, è il contrario, no? Non si è fatto per niente allarme, anche perché le regioni lì non è che possono decidere autonomamente. Sarebbe servita, come dire, una maggiore unità di azione, questo sia diciamo in Italia, dove appunto qualche regione è andata un po' per i fatti suoi creando un eccesso di allarmismo, forse sia per una regia europea? Guardi, io amplio un po' lo spazio, perché se no si finisce in diciamo giudizi politici che non sono di mia competenza. In un mondo globalizzato è già piccolo il sistema Italia. Dovremmo essere organizzati, soprattutto per i grandi temi, e la salute è questa, proprio a livello mondiale. Io avrei auspicato, in attesa del coronavirus, che noi tutti del settore, noi tutti esperti, eravamo convinti che sarebbe arrivato, avrei auspicato un coordinamento a livello europeo, internazionale. Abbiamo perso questa chance perché ovviamente c'è un'autonomia di tutti gli stati di organizzarsi come meglio credono. Io parlo dal punto di vista tecnico. Oggi non si può parlare di frontiere di organizzazione sanitaria, frontiere di virus che arrivano comunque, frontiere di interventi. Io mi riferisco a un problema del quale non si parla più: le vaccinazioni. È assurdo che si abbiano frammentazioni in un territorio con bambini vaccinati con un tipo di vaccino e altri che invece non hanno accesso. Quindi guardiamo la sanità in prospettiva, e questa lezione sarà importante in un'organizzazione internazionale. Gismondo, ci conferma un po' il nostro problema, ossia questi numeri sono stati gonfiati dal fatto che, a differenza di altri, facevamo il tampone anche agli asintomatici, mentre invece gli altri paesi non lo fanno? Guardi, glielo confermo, perché sono in contatto anche con l'Istituto Pasteur, sono stato col COC. Ovviamente il COC è quello tedesco, lo chiarisco agli ascoltatori. Scusate, stiamo parlando di Francia e Germania. Sono stata in contatto anche con in parte anche con la Cina. Il discorso è questo: bisogna chiarire alle persone cosa significhi positivo e cosa significhi malato. C'è una differenza abissale. Ci sono delle circolazioni virali che possono esistere addirittura nel 90% della popolazione, ma dare solamente alcuni casi di patologia. In questo momento, ma ripeto, questo momento, perché è un virus che non conosciamo, quindi tutti navighiamo a vista, si presume che sia così e i dati ce lo stanno confermando. Negli altri stati, in Francia, si sono fatti solo 400 tamponi, noi ne abbiamo fatto a migliaia, perché comunque la gente era molto allarmata, c'era il panico e probabilmente è stato meglio tranquillizzarlo con questa tipologia di test. Però dobbiamo spiegare bene, adesso passata la prima fase in cui la gente pare che abbia meno panico, e si vede dal fatto che qui a Milano si torna a vedere gente per strada, dobbiamo spiegare che bisogna che si rechino al pronto soccorso o comunque si rechino ai punti di osservazione solo le persone che hanno sintomi. Daremo numeri reali e l'Italia non finirà in fondo alla classificazione dei paesi con maggior numero di infettati, di malati di Covid, cosa che ci sta procurando dal punto di vista economico veramente una tragedia. Nell'80% dei casi il coronavirus, il Covid-19, decorre in modo benigno, nel 15% sicura efficacemente e solo nel 5% dei casi, parliamo a livello mondiale, ha conseguenze più gravi. Noi siamo strutturati nelle 2/3 regioni del nord interessate, siamo strutturati come capienza ospedaliera, si sono aggiunte anche le strutture militari per ospitare, nel caso appunto centinaia di malati che vanno curati per 10 giorni, poi guariscono, come abbiamo visto. Oggi hanno annunciato la guarigione dei 3 che erano allo Spallanzani a Roma. Io parlo ovviamente per la regione Lombardia nella quale opero. Ci sono dei piani di diverso livello di accesso. La cabina di regia è riunita tutti i giorni proprio per dare risposta anche logistica di qualsiasi tipo che emergano sul territorio in base alla casistica, in base anche a quanta gente richiede assistenza. E il quanta gente è direttamente proporzionale al panico che si dissemina o no. Comunque abbiamo strutture ospedaliere d'eccellenza che hanno già messo a disposizione tutti i posti letto di malattie infettive, anche di terapia intensiva per pazienti di Covid-19, e al momento, ho partecipato a tavoli tecnici ovviamente, non c'è nessuna preoccupazione in questo senso. Stanno allestendo anche una struttura militare per eventuali quarantene. Io spero che questa possa venire sotto utilizzata, perché già oggi e stanotte la richiesta di tamponi, io vedo da questo punto di vista, è in leggero declino. Spero che continui così. Speriamo che davvero che continui così. Senta, Gismondo, qua qualche ascoltatore, ovviamente parliamo dell'allarmismo, no? Ci mette di fronte a quelle che sono le responsabilità dei media, dei giornalisti, che sicuramente ci sono, così come ci sono responsabilità anche delle istituzioni, ma anche, io adesso non vorrei riaprire una ferita che appare chiusa, ma anche il fatto che ci sia stato uno scontro tra scienziati, non faccio nomi, mi fermo qua, Gismondo, perché ormai tutti sanno della polemica che c'è stata, lo dico, vabbè, con Burioni, tra lei e Burioni, non ha contribuito anche questo a creare un po' di confusione? Io voglio precisare, visto che ormai anche la risposta di Burioni è pubblica, io non ho mai inseguito questa querella e quindi non è stato uno scontro, è stato eventualmente un momento di crisi. Ieri si è scusato Burioni. Sì, ma va bene, guardi, alla gente non interessa se 2, 3 o 4 ricercatori hanno qualcosa da dirsi sul piano così profondo intellettuale. Posso dire, dottoressa, faceva prima mandarle un messaggio privato, no? L'eccesso... Me lo ha mandato, poi non so, ma siete voi comunicatori che potete giudicare. Siamo noi che vi stuzzichiamo, questa è la verità. Questo sicuro. Ecco, io non mi lascio stuzzicare, perché la gente interessa il coronavirus e l'influenza, sono veramente stanchi di leggere tutta questa roba. Insomma, noi dobbiamo garantire tutto. tutti una dignità della scienza e della ricerca. Dobbiamo dare risposte concrete alla gente. Lasciate perdere tutto il resto che veramente è noia. Il fatto che ci sia però un confronto leale tra ricercatori, tra scienziati è assolutamente positivo, perché a parte i numeri l'interpretazione può essere anche in parte soggettiva, in parte al background culturale che si ha, perché tanto per dire, Burioni è immunologo, io sono virologa, Pregliasco e Capua sono virologi, quindi si hanno approcci diversi. Confrontarsi apertamente fa bene a noi e a tutti e alla salute pubblica. Torno alla comunicazione, ci tengo tanto, sul fatto dell'accusa dei media. Io ho sostenuto anche ieri in una trasmissione che i media devono assolutamente informare e amplificare l'informazione, sentire la gente, insomma, sapete bene, voi lo fate molto bene sulla vostra radio. Però i numeri ufficiali non si possono dare all'uscita di un ospedale dicendo mi hanno appena comunicato che ci sono 4 casi e 5 casi. Deve essere l'istituzione centrale che faccia un bollettino con i numeri reali della giornata, poi siamo tutti liberi di commentarli, ma abbiamo avuto i media pieni di 4 casi probabili qua, 3 casi probabili, che poi sono stati quasi sempre negativi. La gente poi legge che è negativo, ma prima si allarma tanto. Era questo il concetto, assoluta libertà di stampa, per carità, no, non la mettiamo in discussione noi italiani, torneremmo indietro di secoli. Certamente, Gismondo, dico, come quando si dice ci sono 5 bambini contagiati, poi si apprende che in realtà 2 già sono stati dimessi, sono qua praticamente asintomatici, e quindi no, diventa una cosa un po' complessa. No? È proprio certamente. Questo, tra l'altro fattori molto sensibili, che le mamme che si allarmano e poi pretendono che si chiudano le scuole, poi i bambini non vanno alla settimana bianca. Insomma, io ieri ho avuto una mia parente che è in settimana bianca, una bambina di 9 anni, la maestra da sci, di sci, le ha detto ma forse non dovrei darvi la mano, ci hanno detto così, dai, ti do la mano perché poi la lavo subito. Cioè è una cosa drammatica per la bambina, sì, che vede una cosa, si è messa a piangere, ha detto allora io sono malata. Allora queste cose non si possono permettere. No, dottoressa, fa molto bene lei appunto a comunicare anche, ma l'ha fatto da tempo, dalla settimana scorsa, che è una situazione che si può benissimo tenere sotto controllo. Sono curiosa di chiederle che cosa le hanno detto i suoi colleghi del Pasteur di Parigi e del Koch, perché a quanto mi risulta, per esempio, i media di quei due paesi, Germania e Francia, tengono bassissima la questione coronavirus, ma proprio bassa. Certo, ma non ci siamo confrontati sulla comunicazione. No, immagino di no. Sì, appunto, perché non è una cosa che sinceramente ci interessa, perché il nostro lavoro non è quello, è importantissimo, ma non siamo esperti di comunicazione, per fortuna, perché in questo tempo sarebbe stato... Cosa terribile. Le hanno detto invece della diffusione in Francia e in Germania? Allora, mi hanno detto che ci sono stati quei casi che hanno indagato, mi hanno detto che facevano i tamponi, fanno i tamponi solo quando ci sono casi, secondo le linee guida dell'OMS, probabili, e che il virus, siamo tutti d'accordo su questo, sicuramente è circolante in tutta la popolazione mondiale ormai, ma che per fortuna, avendo questa bassissima letalità, non dà in casi eclatanti, perché la maggior parte dei casi, e in questo siamo d'accordo tutti anche in sede OMS, passa silentemente. Non dimentichiamoci che questa epidemia è esplosa in contemporanea nel nostro emisfero con il picco dell'influenza stagionale, quindi sicuramente, metto la mano sul fuoco, ma non io, tutti gli esperti, che la maggior parte dei casi precedenti si sono confusi per influenze o addirittura complicanze di influenze, perché ripetiamo quello che dice la collega Ilaria Capua, e che ovviamente non posso che confermare: noi troviamo quello che cerchiamo, se non lo cerchiamo il coronavirus non lo troviamo, lo abbiamo cercato tanto. Abbiamo rassicurato la gente che non poteva essere mandata a casa affollando peraltro negativamente per l'espandersi dell'epidemia, i centri ospedalieri, e ne abbiamo trovato tanti. Adesso se il Ministero, l'OMS e il Ministero ridurranno i numeri di casi da indagare miratamente su quelli che hanno bisogno di avere la diagnosi, vedrete che i numeri si ridimensioneranno e la gente sarà più tranquilla. Grazie Maria Rita Gismondo per essere stata grazie con noi. A voi. Buon lavoro, grazie. Dottoressa. Buon lavoro, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo col ministro Gualtieri. Mattino. Roberto Gualtieri, ministro dell'economia, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Maria, prego, inizia tu, vai. Buongiorno, buongiorno ministro. Allora, con una battuta si può dire che di coronavirus non si muore, ma potrebbero esserci un sacco di fallimenti in Italia. Allora, da giorni Confindustria segnala la necessità di misure strutturali, l'ha fatto il direttore generale ieri, Marcella Panucci, l'ha fatto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, il quale dice non sono sufficienti le poche misure adottate e ipotizzate finora. Le chiedo quando approverete nuove misure e quante risorse pensate di poter utilizzare. Beh, noi stiamo lavorando appunto a queste misure da diversi giorni. Contiamo di avere un primo decreto già questa settimana e un secondo la settimana prossima. Quelle che sono state già adottate sono semplicemente misure che si potevano fare senza decreto, cioè con un semplice decreto ministeriale, cioè il rinvio di alcune scadenze tributarie nella zona rossa, ma siamo pienamente consapevoli che appunto non è di questo, queste non sono sufficienti, e quindi appunto stiamo lavorando per da un lato dare il necessario sostegno alle imprese, ai lavoratori, ai professionisti della zona rossa, ma anche per varare misure per tutti quei settori che sono direttamente colpiti dagli effetti economici del coronavirus anche al di fuori dei territori della zona rossa. Penso per esempio al settore del turismo, ma non solo. C'è un tema più generale, Gualtieri, che ha a che fare, ministro, con l'andamento della nostra economia. Il rischio che una situazione di questo genere, se protratta anche per un tempo relativamente breve, possa creare dei seri danni. Le previsioni di crescita della Commissione europea le conosciamo, un più 0,3%, voi se non vado errato prevedete al momento qualcosina di più, alcuni già ci vedevano in recessione prima di questi eventi. C'è una possibilità concreta che il paese finisca in recessione? Ma guardi, se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che in questo momento è impossibile fare stime precise, perché per avere una stima bisognerebbe sapere qual è l'evoluzione del virus e se, come noi auspichiamo, le misure di contenimento saranno efficaci e quanto tempo ci vorrà per debellarlo. Queste sono cose che nessuno oggi sa, e quindi veramente dare i numeri non è ciò che serve. Quello che serve oggi è varare le misure necessarie. Noi eravamo fiduciosi all'inizio dell'anno che con la manovra e con l'aumento degli investimenti, il taglio al cuneo fiscale, una serie di interventi a sostegno della crescita e della coesione sociale e territoriale, avremmo rilanciato l'economia di un paese che abbiamo preso fermo nel 2019. È evidente che col coronavirus, al di là della quantificazione esatta del suo impatto, tutto ciò non è sufficiente, serve un pacchetto aggiuntivo di misure, sia di sostegno diretto, come dicevo, a territori e imprese colpite, sia anche più in generale di bilancio dell'economia. È esattamente quello che stiamo facendo anche in dialogo ovviamente con l'Europa. Ministro, oggi arriva a Napoli il presidente francese Macron con una nutrita delegazione di ministri, 11 ministri francesi, e sia nei giorni scorsi Paolo Gentiloni, il commissario a Bruxelles, sia molti osservatori pensano e sperano che con questa emergenza che sta producendo serissimi danni al turismo, all'impresa, non soltanto nel nord, ci sia la possibilità che l'Europa ci conceda una maggiore flessibilità. Vorrei sapere se ci spera anche lei e in che termini, in che modi potrebbe tradursi questa flessibilità. Tanto il concetto concessione non mi sembra adeguato, insomma, siamo noi che formuliamo delle richieste, abbiamo un dialogo e è bene sapere che le regole europee prevedono due cose: con tutti i loro limiti che noi le vogliamo migliorare, modificare, prevedono che ci sia un adattamento al ciclo economico e quindi i cosiddetti stabilizzatori automatici, per esempio la cassa integrazione, non contano se aumentano per effetto di un calo dell'economia, non contano nel deficit strutturale, ma solo in quello nominale, una cosa molto tecnica, insomma, appunto, si chiama anticiclicità, e poi è possibile appunto che gli eventi straordinari consentano delle spese non computate nel calcolo del deficit. Quindi queste sono le regole. Lei avanzerà comunque le richieste? Ma stiamo lavorando. Premesso una cosa che mi piace sempre chiarire: i conti pubblici italiani sono in buona salute. Noi avremo a breve i dati sul 2019 e vi posso anticipare che saranno dati migliori delle nostre previsioni, perché come avevamo detto nell'ultima fase dell'anno c'è stato un aumento delle entrate fiscali, quindi noi entriamo in questa situazione difficile con una finanza pubblica in buona salute. Naturalmente siamo pronti anche nella definizione delle misure a utilizzare gli spazi di flessibilità, o meglio di adattamento alle circostanze eccezionali che sono previste. Ma io dico qualcosa di più: qui non si tratta solo di un singolo paese che deve giustamente utilizzare questi spazi previsti dalle regole, ma quello che io ho detto con molta chiarezza al G20 e quello che discuteremo, e sono certo ci troveremo d'accordo anche con Bruno Le Maire, con Emmanuel Macron, oggi al vertice di Napoli, è la necessità anche di una risposta comune e concertata a livello europeo e internazionale a quello che, al di là del fatto che in questa fase l'Italia ha numeri di contagio particolarmente alti, è un fenomeno globale che avrà un impatto globale, quindi occorre una risposta concertata di politica economica. Concertata evidentemente a livello europeo. Certo, Ministro, sempre deficit è? Sì. E insomma, un problema comunque sui conti pubblici rischia di generarlo, no? No, come le dicevo, è un problema sulla crescita, ma non sui conti pubblici che sono godono di buona salute, quindi non abbiamo questo problema. Avete avuto un problema invece di tensioni, no? Tra governo centrale e regioni, perché ovviamente la decisione di andare un po' in autonomia ha provocato qualche tensione a Roma. Oggi Walter Ricciardi, che è stato appunto scelto come consigliere dal ministro della Salute Speranza, dice: l'Italia ha una debolezza, il sistema è frammentato, è in mano alle regioni e lo Stato ha solo ruoli limitati. Per quanto riguarda la sua, diciamo, esperienza di questi giorni, so che non è un suo problema la questione della salute, però era lì seduto al tavolo con tutti i suoi colleghi. Lei pensa che ci sia stato un eccesso di protagonismo da parte delle regioni, oppure c'è stato un eccesso di allarmismo da parte, diciamo, vostra, del governo centrale? Ma il governo centrale non ha fatto nessun allarmismo, ma ha preso delle misure di contenimento del virus nei focolai, nei cluster, che si sono svelate appropriate, perché poi effettivamente, come si vede, la stragrande maggioranza dei casi sono lì o derivano da lì, quindi è stato giusto concentrare le misure in particolare nei cluster. Quello che effettivamente occorre gradualmente correggere è un'impostazione nata anche per ragioni comprensibili, quindi lo dico senza veramente alcuno intento polemico, per la preoccupazione sulle prime notizie di casi in aumento, di interventi con dimensione regionale e quindi per definizione non sufficientemente modulati rispetto alle effettive confini e geografia dei casi, che non è che rispetto ai confini regionali, ma sono delle zone in qualche modo. Ecco, quindi la dimensione provinciale, per esempio, verso la quale stiamo andando è più adatta. Per cui è bene che ci sia un coordinamento nazionale, le misure siano definite a livello nazionale, siano modulate poi sulla base della effettiva necessità rispetto alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e dell'autonomia sanitaria. E quindi, per esempio, magari in una provincia che è centinaia di chilometri lontano dall'epicentro, dal cluster, magari non è necessario, che tipo chiudere i bar, ma invece c'è, per esempio, una zona di un'altra regione che è molto più vicina, dove si può avere una misura più rafforzata. Quindi, ecco, occorrerebbe, come giustamente dice Ricca, cristallizzazione verso cui stiamo andando attraverso questo dialogo positivo, devo dire, con le regioni, un coordinamento, omogeneità delle misure e ispirate al principio di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle indicazioni degli scienziati e degli esperti. Ministro, lei ha detto che più in generale ci ha detto, a prescindere dai provvedimenti che verranno presi nello specifico per il coronavirus, serve qualcosa per ridare slancio all'economia. La famosa forse cura da cavallo che ha come l'ha descritta il Presidente del Consiglio Conte. Tra gli elementi c'è ovviamente la riforma dell'IRPEF che avete annunciato all'inizio di questa quando è nata questa maggioranza, insomma, e che lei ha detto che insomma una prima bozza, una prima ipotesi, da quel che abbiamo capito, sarebbe stata pronta per aprile. Sconvolge un po' i piani quello che sta succedendo in queste ore? Dobbiamo aspettarci più tempo? E che contorni potrebbe prendere? Intanto vorrei dire che gli strumenti per la cura da cavallo noi li abbiamo messi nella legge di bilancio, perché nella legge di bilancio noi abbiamo aumentato significativamente le risorse per gli investimenti pubblici e per il sostegno agli investimenti privati, e quindi la prima cura da cavallo è sbloccare rapidamente, come stiamo facendo, tutte le risorse che abbiamo stanziato e spenderle immediatamente. Quindi noi abbiamo già gli strumenti nella legge di bilancio per questa cura da cavallo. Adesso servono interventi aggiuntivi, ma serve anche proseguire nell'attuazione del programma di governo, che comprende anche la riforma fiscale. La riforma fiscale, di cui un primo scaglione è stato già realizzato, perché la riforma del cuneo, la riduzione del cuneo fiscale, cioè la riduzione delle tasse per 15-16 milioni di cittadini italiani, di cui 4 milioni con più di 4 milioni con un intervento molto significativo da 80 a 100 euro netti al mese, questo è già stato fatto e dal 1 luglio entra in vigore. Noi però abbiamo sempre detto che questo era un primo scaglione di una riforma più organica che punta alla semplificazione innanzitutto del sistema fiscale, anche a un sostegno, un tentativo di ridurre la pressione fiscale in particolare sul lavoro, riducendo anche alcuni squilibri che ci sono e affrontando una serie di questioni, penso agli incapienti, penso al sostegno ai figli, eccetera. Stiamo lavorando e il mio obiettivo è di mantenere la tabella di marcia che ci siamo dati. Naturalmente dipenderà anche dall'evoluzione della situazione, ma noi stiamo lavorando per arrivare a un disegno di legge delega per la fine di aprile e poi naturalmente concluderà il lavoro. Quindi al momento tabella di marcia confermata, Ministro? Ma questa vicenda ci richiede di realizzare misure aggiuntive e straordinarie, e stiamo lavorando pancia a terra per farlo, ma ci rafforza nella convinzione che dobbiamo attuare il programma di lavoro che ci eravamo dati e tutte le sue direttrici: semplificazione, digitalizzazione, riforma fiscale, Green New Deal, sono componenti essenziali di un'azione di rilancio del Paese. Ministro, c'è in questa fase un atteggiamento che sembra essere meno arcigno da parte dell'Europa e di Bruxelles nei confronti dell'Italia. Lei è stato a Bruxelles come eurodeputato, ha avuto ruoli significativi. La notizia di ieri è che la Commissione europea nel rapporto semestrale sull'Italia parla di riforma positiva in linea con la raccomandazione che era stata formulata da tempo per quanto riguarda la legge blocca prescrizione, dice finalmente recepite le richieste dell'Europa. A fronte di questo atteggiamento, diciamo, di apprezzamento dell'Europa, però in Italia l'opposizione dice che invece il governo finora ha fatto poco, e segnatamente due partiti, soprattutto la Lega e Italia Viva, spingono per un governo istituzionale. Secondo lei quante possibilità ci sono che questo governo istituzionale veda la luce, ed eventualmente lei sarebbe disposto a guidarlo? Le possibilità sono pari a zero, diciamo, sono discussioni senza senso, retroscena, privi di alcun fondamento. Nei paesi seri, quando c'è un'emergenza, non si cambia il governo, ma semmai l'opposizione assume un atteggiamento più responsabile. Questa è la fisiologia dei paesi normali, è quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Peraltro noi questo atteggiamento non è non benevolo, ma semplicemente corretto, anche perché l'Europa siamo noi siamo parte della maggioranza che ha eletto la Commissione europea e del coloro che hanno indicato un programma, e ricordo quando abbiamo negoziato proprio il programma di Ursula von der Leyen, abbiamo richiesto, io allora ero anche in Parlamento, non democratici, insomma, che l'elemento della flessibilità nell'attuazione del patto di stabilità fosse chiaro, e anche l'esigenza di aumentare gli investimenti, il Green Deal. Quindi, diciamo, siamo parte di questo atteggiamento, non siamo, diciamo, dei beneficiari di una benevolenza esterna. Ma detto questo, noi appunto sulla base di questa linea abbiamo per esempio potuto, in modo serio, senza conflitti, senza sceneggiate, battere i pugni sul tavolo e poi magari dover precipitosamente fare marcia indietro come era avvenuto in passato, ma abbiamo negoziato un adeguato margine di flessibilità che, insieme ad altri fattori, il contrasto all'evasione fiscale e altre misure di serietà, ci ha consentito di evitare l'aumento dell'IVA e contemporaneamente di aumentare gli investimenti, di aumentare, perché è bene ricordarlo, noi quest'estate non abbiamo fatto quello che diciamo, era in una delle leggi di bilancio preparate, diciamo, nei cassetti del MEF, cioè tagliare la spesa sanitaria, ma anche abbiamo aumentato la spesa sanitaria, abbiamo fatto le cose di buon senso nel quadro ovviamente anche di una capacità di concordare con l'Europa i necessari margini di flessibilità, e quindi questo ovviamente continuerà, ma il punto non è solo che l'Europa conceda all'Italia più o meno flessibilità, il punto è che l'Europa come tale realizzi le politiche economiche e di sviluppo adeguate. E questo è la cosa che mi interessa di più. Poi tutto il resto, le chiacchiere su presunti, diciamo, governi, sono veramente non sentiamo il bisogno di retroscena privi di fondamento. Occorre lavorare seriamente per affrontare questa crisi, contenere il virus e dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori che sono toccati da questa vicenda. Ministro, visto che siamo tornati sull'Europa, sulla flessibilità, mi faccia tornare alla questione dei conti pubblici. In questi giorni abbiamo visto un rialzo dello spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni. Insomma, si intravede forse il seguente rischio, ossia il fatto che inevitabilmente, come ci diceva lei, dovremmo far più deficit per contenere i danni provocati da tutto questo. Ci saranno delle difficoltà, presumibilmente, per la nostra economia. Il rischio di rialzo dello spread in un paese a debito alto, effettivamente, insomma, non lo dico io, lo dicono gli osservatori, qualche problema lo potrebbe generare. Ma non è così. Guardi, le comunico che ieri lo spread non è salito, anzi, e che siamo sotto i livelli di 2 mesi fa. Non è salito partito, c'è stato solo un aumento all'inizio che ci ha fatto perdere quella molto significativa riduzione che si è determinata dopo il voto in Romagna, ma siamo ancora ampiamente al di sotto dei livelli, per esempio, di novembre o di dicembre. Quindi siete tranquilli, Gualtieri, in sostanza? No, ma le ripeto, guardi, adesso usciranno i numeri. I dati della finanza pubblica italiana sono buoni, sono migliori delle nostre previsioni, e lo vedremo a breve. Quindi, come dicevo, esistono i margini per interventi, e poi sarà, ovviamente, valuteremo quanti margini aggiuntivi di flessibilità saranno necessari, ma tutto ciò non ci costringerà, diciamo, a mettere in discussione l'equilibrio della finanza pubblica, e quindi tutto questo avviene in un quadro in cui noi confermiamo gli indirizzi, diciamo, di medio periodo della nostra strategia di finanza pubblica. Quindi non vedo alcun problema da questo punto di vista, quindi mi sembrano da questi sì allarmismi giustificati. Senta, ministro, lei è candidato nel collegio che fu di Paolo Gentiloni e quindi adesso è in campagna elettorale. Roma viene da un lungo periodo nel quale è stato a centro di tante polemiche, ma soprattutto manca di un progetto e di innesti internazionali. Un tempo, negli anni 60-70, arrivavano a Roma manager da tutto il mondo perché c'erano le sedi delle più importanti multinazionali. Adesso non è così, e non è così da molto tempo. Lei che cosa farebbe, che cosa propone per la sua città? Ma io sono stato onorato della richiesta che mi è stata rivolta di candidarmi per provare a sostituire Paolo Gentiloni, che ha rappresentato questa città in Parlamento e che appunto non è dovuto lasciare il seggio perché fortunatamente per l'Italia è diventato commissario europeo. E naturalmente sono consapevole che in questa richiesta al Ministro dell'Economia di essere anche un parlamentare di Roma ci sia la richiesta di concorrere al rilancio di questa città, che non è solo un tema amministrativo e che non non è solo, anche se anche, un tema di risorse, perché io penso che complessivamente rispetto al ruolo e alle funzioni che assolve Roma meriti più risorse, non è persino neanche solo un tema di governance di poteri, tutta la questione molto complicata di Roma Capitale, ma è davvero un tema che attiene alla necessità di dare centralità alla questione della capitale d'Italia, nelle strategie, nell'azione politica, nella progettualità anche internazionale dell'Italia. Tutti i grandi paesi europei considerano le loro capitali come degli asset, e Roma lo è. Quindi Roma non è solo un tema territoriale, è una questione nazionale, e quindi quello che io mi propongo di fare è di contribuire, ma a rafforzare, a riportare al centro il tema di Roma come una grande risorsa e opportunità innanzitutto per l'Italia, se vuole esercitare un ruolo internazionale. Roma è una grande capitale internazionale, è una delle grandi capitali europee, è il terzo polo mondiale delle Nazioni Unite, è la sede della cristianità, è affacciata del Mediterraneo, ha una grande vocazione internazionale, cosmopolita, e può svolgere e deve svolgere un ruolo il più importante. Ministro, abbiamo spazio per un'ultima domanda e ha a che fare in parte con la riforma fiscale, ma non solo. Ha a che fare con il mondo degli autonomi, delle partite IVA, che hanno dato l'impressione, pur non godendo di particolare rappresentanza, non riuscendo a coagularsi con una vera rappresentanza, sono sentiti in parte un po' abbandonati da questo governo, con l'idea che siate un governo che favorisce prevalentemente i lavoratori dipendenti. Avete intenzione di fare qualcosa per il mondo degli autonomi dopo l'operazione fatta sul forfettario a inizio dell'anno con la manovra? Sì, innanzitutto nonostante il costo di questa misura, alcuni elementi di criticità, abbiamo deciso di mantenere il regime dei minimi sulla cosiddetta flat tax al 15% fino a 65.000 euro, che è una misura molto costosa che originariamente avevamo anche inteso di non mantenere, che invece abbiamo mantenuto proprio per evitare un aggravio di carico fiscale per il mondo delle partite IVA. Secondo, esistono sicuramente alcuni elementi di iniquità per quanto riguarda per esempio la questione delle assegni familiari, diciamo così, detrazioni per figli a carico, e il progetto di assegno unico a cui stiamo lavorando vuole proprio unificare i benefici anche per autonomi e dipendenti pubblici e affrontare la questione dell'incapienza. Quindi insomma, ci sono una serie di profili, e infine c'è il terzo, quello della semplificazione del sistema fiscale e anche di un atteggiamento che io trovo giusto, che è quello che è stato un po' annunciato da Ruffini, che abbiamo nominato l'Agenzia delle Entrate, di concepire l'amministrazione fiscale e quindi la filosofia del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti più con la logica del tutor che con quella dell'autovelo, cioè definire meccanismi che incoraggiano una compliance spontanea e più che, diciamo così, concentrarsi su andare magari nei punti di difficoltà, un po' come avviene in quelle amministrazioni locali, che spesso ci capita quando si fanno le gite fuori porta, che no, ci sono concentrazioni di autovelox nei tratti di strada particolarmente intensi, più facile sbagliare per fare cassa, diciamo. Vabbè, tutti gli italiani sanno di cosa si tratta. Ecco, quindi la filosofia del tutor più che quella dell'autovelox è naturalmente in una anche molto determinata strategia di contrasto all'evasione. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie Roberto Gualtieri, ministro dell'economia. Nemmeno oggi abbiamo tempo, Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. A domani, arrivederci ministro. Buon lavoro, a domani alle 6:30, ciao.